Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io credo che la vera procedura che l'Europa deve aprire nei confronti dell'Italia è una bella procedura di ringraziamento per quello che abbiamo fatto. Questo ha detto il ministro dell'Interno Alfano, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Oggi sapete che è stato il vertice, l'ennesimo vertice europeo sull'emergenza migranti. Domani ci sarà poi quello dei capi di Stato e di Governo. E dice Alfano, l'Unione Europea deve dirci grazie per quello che abbiamo fatto. Ho visto un'altra dichiarazione di poco fa, dice, con la relocation, cioè la redistribuzione che è stata decisa oggi, abbiamo avuto dall'Unione Europea ciò che volevamo. Che ne pensate? Effettivamente l'Unione Europea deve dirci grazie, a parte non si capisce se deve dirci grazie perché per un po' ci siamo accollati quasi esclusivamente noi insieme alla Grecia, per carità, la questione, il peso pur di persone disperate che arrivavano, oppure perché ha sollecitato l'Europa a occuparsene l'Italia. In realtà poi i paesi europei se ne stanno occupando gioco forza perché stanno arrivando dappertutto. L'OCSE parla di una pressione migratoria senza precedenti e poi l'Organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati dice che è un esodo epocale come non si è mai visto, e quindi per forza adesso l'Europa deve prenderne coscienza e cercare di affrontare il problema. Avete fiducia che l'Unione Europea riesca a gestire questa emergenza? 349-238-6666, lo sapete, sempre il numero per mandare i messaggi, 349-238-6666. Oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, anche per aderire senza indugio. Quindi voi avete fiducia che l'Unione Europea riesca prima o poi, attraverso i vari vertici, gli accordi o i disaccordi, insomma, ad arrivare a una soluzione, o almeno a un modo di affrontare un collettivo questa emergenza. Poi parleremo di varie altre cose. C'è anche questa notizia dei 500 euro che arriveranno in busta paga agli insegnanti, fa parte della buona scuola, questo incentivo dovrebbe servire per l'autoformazione degli insegnanti. E stasera ci sarà qui a Effetto Notte il sottosegretario Faraone, che ne parlerà e cercherà di spiegare anche questa fase C o fase 3 delle assunzioni. Ci dovrebbero essere altre 55.000 assunzioni, però già l'ANIEF, il sindacato professionale degli insegnanti, dice che non potenzierà la scuola, ma anzi creerà caos. Insomma, vari gli argomenti anche questa sera. Poi c'è la partita di calcio, la Serie A che parte con Udinese 0 Milan, già vedo che è in vantaggio, lo scopriremo tra poco. E poi ci occuperemo naturalmente anche di questo scandalo che si ingigantisce sempre di più, che riguarda la Volkswagen, anche perché il giornale tedesco Die Welt in serata ha fatto sapere, dice, che il governo tedesco già sapeva di quanto stava succedendo. Insomma, cominciamo a entrare nel riassunto della giornata e poi man mano con gli ospiti. Lo scandalo Volkswagen, sono 11 milioni le auto truccate, l'Unione Europea avverte, andremo fino in fondo. E mentre la cancelliera Merkel chiede chiarezza, il giornale Die Welt accusa il governo sapeva di truffe sulle emissioni. Titolo Volkswagen intanto meno 35% in due giorni, borse KO. Migranti, approvata a maggioranza a Bruxelles la redistribuzione di 120.000 rifugiati e l'OCSE parla di esodo senza precedenti. La riforma del Senato, accordo in dirittura d'arrivo, ma la minoranza PD fa sapere che gli emendamenti per ora restano, ma l'intesa è vicina. Scuola, arrivano i 500 euro ai professori per la formazione e parte la terza tranche di assunzioni per 55.000 posti. Questa sera, Effetto Notte, il sottosegretario Faraone. Ruby bis, forse nella notte la sentenza della Cassazione per Minetti e per Fede, per il quale il PG, il procuratore generale, chiede un aumento della condanna e Bossi è stato condannato a 18 mesi per vilipendio a Napolitano. Calcio Serie A in campo per la quinta giornata con la partita Udinese-Milan. In testa le notizie, quindi, il caso Volkswagen con il titolo che affonda in borsa e i titoli nelle ultime due sedute hanno perso un terzo del loro valore. Esprime le stesse richieste di Angela Merkel. Il ministro degli esteri tedesco Steinmeier, che auspica si faccia il prima possibile chiarezza sulla misura delle manipolazioni e soprattutto sulle persone responsabili dello scandalo che ha travolto Volkswagen. Un caso, quello della violazione delle norme antismog da parte della casa tedesca, che ha affondato in giornata i listini europei, che ha fatto precipitare il titolo di oltre il 20% dopo il crollo del 18,6% di ieri. Sarebbe sbagliato se il terribile errore di pochi compromettesse il lavoro onesto di di 600.000 persone. Le parole del CEO di Volkswagen, Witterkorn, la cui poltrona è sempre più vacillante dopo la notizia che il software incriminato non riguarda solo i 480.000 veicoli distribuiti negli States, ma ben 11 milioni di diesel Volkswagen venduti nel mondo. Corea del Sud e Australia chiedono chiarimenti. Il ministro delle finanze francese Sapin vuole dalla Commissione UE un'inchiesta interna da allargare anche ai costruttori europei, e anche in Italia il ministro dell'ambiente Galletti chiede di valutare lo stop alle vendite. Volkswagen, che si preparava al sorpasso di Toyota per ottenere la leadership mondiale delle quattro ruote, ora si affretta ad accantonare 6 miliardi e mezzo di euro per far fronte alle spese legate allo scandalo, anche se la multa che rischia arriva in realtà a 18 miliardi di dollari. Così il nostro ministro dello sviluppo Federica Guidi. Se fossero confermate le cose che stiamo leggendo, sarebbe un grave danno, è una questione di grande importanza e che preoccupa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di migranti adesso, perché è stata approvata a maggioranza qualificata al vertice dei ministri dell'interno a Bruxelles la redistribuzione di 120.000 rifugiati. I paesi di primo arrivo, cioè l'Italia, la Grecia e l'Ungheria, devono però in cambio impegnarsi a rafforzare le strutture di identificazione e registrazione del proprio paese in collaborazione con le agenzie dell'Unione Europea competenti. Non c'è stata, vi dicevo, però l'unanimità, perché Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Ungheria hanno votato contro questo programma di redistribuzione, mentre la Finlandia si è astenuta. Poi ne parleremo in modo più approfondito. Intanto vi dicevo che l'OCSE parla di un esodo senza precedenti. Spostiamoci sulla politica italiana. La minoranza PD apre a Renzi sulle riforme dopo la direzione di ieri del partito, ma mantiene per ora le modifiche al testo di riforma del Senato. La minoranza del PD ribadisce il giudizio positivo sulle aperture arrivate ieri da Renzi, ma per ora conferma i suoi emendamenti alla riforma costituzionale. Prima di ritirarli, i senatori della sinistra Dem spiegano di voler attendere che venga messa nero su bianco la soluzione ventilata dal Premier, un intervento sul quinto comma dell'articolo 2 del testo che permetterebbe agli elettori di scegliere i nuovi senatori, la cui nomina verrebbe però ratificata dai consigli regionali. Sull'ammissibilità degli emendamenti si attende anche la decisione del presidente del Senato Grasso, sul quale Renzi e i suoi restano in pressing. Grasso oggi ha detto di guardare con ottimismo ai segnali di dialogo sulla riforma, ma ha anche rivolto un monito alle forze politiche. Richiamo ancora una volta le parti politiche a non trattare la materia costituzionale come strumento di bassa politica. Invito ad anteporre l'interesse generale a quelli particolari e personali. Le regole della democrazia qualificano la libertà di ciascuno di noi e vanno maneggiate con cura e cautela. In mattinata Grasso è stato anche contestato dalle opposizioni per la sua decisione di ridurre i tempi della discussione in aula, visto il gran numero di interventi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Comunque, come vi dicevo, poco fa è apparsa questa nota della minoranza del PD che dice che l'intesa è vicina. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un ultimo pacchetto di decreti della delega fiscale, anche tra questi anche un nuovo piano di rate per chi negli ultimi due anni ha avuto difficoltà a pagare le tasse. Siamo alla cronaca giudiziaria con il processo Ruby Bis, arrivato al terzo grado, quello della Cassazione, col procuratore generale che chiede di aumentare la condanna per Emilio Fede, poiché sapeva, secondo il magistrato, che Ruby al tempo delle cene eleganti era minorenne. Una sentenza che richiede una camera di consiglio piuttosto lunga, potrebbe arrivare forse nella notte, vero Raffaella Calandra, questa sentenza? Ciao Raffaella. Ciao Roberta, sì, è attesa nella serata molto tardi o addirittura nella notte la sentenza della Cassazione, ma questo anche perché c'era, oltre a questo verdetto, i giudici della terza sezione penale dovevano pronunciarsi su altre 17 cause in giornata, però sicuramente quella più complessa è questo caso, il caso Ruby Vis, quello che riguarda Emilio Fede e Nicole Minetti, due dei tre coimputati di questo filone, perché Lele Moro invece non ha fatto ricorso alla Cassazione e sta già scontando la sua pena. Come ricordavi, il procuratore generale ha chiesto, diciamo, un nuovo processo d'appello, in sostanza soltanto per ridefinire la pena per Emilio Fede, perché a suo dire dovrebbe essere condannato anche per la prostituzione minorile, quindi la sua condanna dovrebbe aumentare. La pena per Fede era passata in secondo grado a 4 anni e 10 mesi dai 7 anni del primo grado, e questo proprio perché da un processo all'altro era caduta l'accusa di induzione alla prostituzione minorile. Erano state ridotte le pene anche per Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale regionale, appunto della regione Lombardia, che il PG ha definito la mediatrice tra il cavaliere e le olgettine, e per lei in secondo grado era stata emessa una condanna a 3 anni e oggi la Procura Generale ha chiesto che fosse confermata. Quello che si può dire in questo momento è che al momento, diciamo, nessuno dei due, anche se ci dovesse essere una condanna a quel punto definitiva, sembra rischiare il carcere. Come mai? Emilio Fede perché ha 84 anni, quindi per l'età soprattutto, e la Minetti perché in primo grado è stata condannata a 3 anni e quindi potrebbe chiedere l'affido ai servizi sociali. Si tratta del secondo filone, come i nostri ascoltatori ricorderanno, di tutta la vicenda delle cene di Arcore, che ha già visto sotto processo nel filone principale lo stesso Silvio Berlusconi, che però appunto è stato assolto con formula piena dalla stessa Cassazione, ma lui aveva altro genere di reato. Aveva la concussione, aveva la prostituzione minorile, insomma sono vicende che non possono essere amalgamate, anche se si tratta di una stessa vicenda, una grande vicenda giudiziaria, ma le responsabilità e le vicende per cui ciascuno degli imputati è stato processato sono ciascuna diversa dalle altre, insomma. Grazie Raffaella Calandra, poi aspetteremo appunto questa sentenza. Grazie Raffaella. Ciao Roberta, ciao. Invece c'è stata una sentenza di condanna già per Bossi, il presidente della Lega Nord Umberto Bossi infatti è stato condannato dal Tribunale di Bergamo a 1 anno e 6 mesi di reclusione per vilipendio del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri, che allora era Monti. I fatti appunto si riferiscono al 29 dicembre del 2011, quando Bossi alla festa Berghem Frecce di Albino attaccò dal palco Giorgio Napolitano e Mario Monti. Mandiamo un saluto al Presidente della Repubblica. E d'altra parte... D'altra parte, nome nomine, Napolitano che si chiama Napolitano. Ah no, non sapevo che era Teru. E magari gli piace così. E proprio per quell'occasione, per quello che disse, che avete sentito bene, appunto, è stato condannato per vilipendio a 18 mesi. Adesso invece parliamo della Guardia di Finanza alla Popolare di Vicenza, oggi indagato Zonin. Una nuova inchiesta scuote il mondo bancario. Oggi sono state effettuate una serie di perquisizioni nelle sedi della Banca Popolare di Vicenza. Il nucleo valutario della Guardia di Finanza è entrato negli uffici di Milano e Roma, più la sede di Banca Nuova di Palermo, dove lavora Paolo Marin, ex vice direttore generale della Banca Vicentina. L'accusa è di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, a carico di 6 indagati, tra cui il presidente Giovanni Zonin, noto imprenditore del settore del vino, e Samuele Sorato, direttore generale. Il fascicolo è stato aperto recentemente dalla Procura di Vicenza, ma i comportamenti messi sotto controllo dagli inquirenti risalgono a molti anni fa. Per molto tempo sarebbero stati falsati i conti, con 1 miliardo di crediti deteriorati tenuti nascosti, con un valore delle azioni gonfiate e, ancora più grave, con finanziamenti forniti agli stessi azionisti per rilevare azioni della stessa banca. Di fatto, quindi, la tesi accusatoria è che gli azionisti abbiano usato il denaro dei correntisti per sostenere il proprio controllo e il proprio possesso della banca. Per questo si parla di aggiotaggio, sarebbe stata data una falsa rappresentazione del bilancio. Tutto è poi venuto alla luce quando i controlli della BCE lo scorso anno hanno evidenziato uno stato patrimoniale lacunoso. Ora si dovrà anche capire a chi sono stati dati i crediti mai restituiti. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ora all'estero, l'organizzazione terroristica ETA dei Paesi Baschi ha subito il colpo di grazia. La polizia francese ha arrestato 2 dei 4 leader indipendentisti baschi. Che il ministro dell'interno spagnolo non ha dubbi, dice, è la fine dell'organizzazione. E poi il viaggio del Papa, è stato, sapete, mediatore nella svolta dei rapporti tra Stati Uniti e Cuba. Papa Francesco ha lasciato l'isola caraibica, ha salutato fin sotto la scaletta dell'aereo da Raul Castro. Il presidente verrà accolto a Washington questa sera da Barack Obama, è il primo capo di Stato francesco a entrare negli Stati Uniti direttamente da Cuba. Adesso invece andiamo direttamente allo stadio con Dario Ricci, perché c'è la Serie A con Udinese Milan, un Balotelli che si temeva fino all'ultimo non ci sarebbe stato, forse un infortunio o qualcosa, invece Dario che ha combinato? No, c'è come Roberta, perché ci ha messo appena 5 minuti Super Mario a sbloccare la partita del Friuli, tutta alta temperatura appunto rispetto alla calda Cuba, 5 minuti, una splendida punizione, un destro potente e preciso a battere l'incontro colpevole Karnezis, pensa, proprio su punizione si era procurato questo fastidio muscolare che ne aveva messo in dubbio l'esordio stagionale dal primo minuto. Ebbene, con un calcio di punizione ha sbloccato la gara e si è sbloccato lui stesso Super Mario. Altri 5 minuti, al decimo è arrivato il raddoppio del Milan con uno splendido lancio millimetrico di Montolivo che Bonaventura prima ha addomesticato elegantemente di petto e poi con un sinistro morbido ha infilato per il 2-0 rosso-nero quando ormai siamo intorno al 35esimo di gioco. Grazie da Luigi, poi ci aggiornerà dopo Dario. Intanto vi aggiorno che i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666 più che fiducia nel gestire l'emergenza da parte dell'Europa, dice c'è la speranza che finalmente si disintegri, immagino l'Europa intende questo ascoltatore. Poi Gianluca da Vittorio Veneto, parlano di profughi non di migranti, solo il 10% sono profughi, continuate a prenderci in giro, dice Max. Volkswagen, vedrete che anche questa bastonata cadrà sulla testa dei lavoratori, degli ultimi, dei soliti martiri della finanza globale. Appunto, speriamo che non sia così. E poi qualcun altro a proposito dell'emergenza immigrazione, dice l'America ha un muro di 1000 chilometri col Messico, lo sapevate? Sì, lo si sa che anche lì insomma è una situazione difficile, che spesso ci sono dei morti, diciamo sono due situazioni un po' diverse. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, adesso c'è l'aggiornamento per chi sta viaggiando e poi cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Luca da, credo, Vicenza, dice scandalo Volkswagen e i Trapani Bosch made in Cina, meno Uber Alles. Adesso non mi sfugge un po' la questione dei Trapani Bosch in Cina, ma probabilmente ci sarà anche questo di problema, anche se può essere forse pericoloso altrettanto, qui si parla di inquinamento. E poi altri messaggi, chiedete a Faraone per quale motivo dopo 10 anni consecutivi di lavoro in Sicilia è stata spedita a 1400 chilometri da casa e ogni giorno riceve proposte per supplenze a pochi chilometri da casa. C'è qualcuno che già comincia a entrare nell'argomento scuola, ma di questo parleremo dopo, tra pochissimo invece parleremo dello scandalo Volkswagen. Vi ricordo però, se avete acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. Appunto lo scandalo Volkswagen che affossa il titolo, meno 35% in 2 giorni, Merkel chiede trasparenza, ma il giornale Die Welt dice che il governo sapeva. Migranti, l'Europa divisa, approva durante il vertice di oggi il piano di redistribuzione, i paesi dell'est però non ci stanno, si parla di un ricollocamento di 120.000 profughi dall'Italia e dalla Grecia, c'è stato il via libera della maggioranza, non all'unanimità. Grasso, presidente del Senato, dice ci sono segnali di dialogo ma ci sono limiti invalicabili a proposito della riforma del Senato. Il Papa negli Stati Uniti, l'abbraccio con Obama e il saluto a Cuba. E poi rate bis per chi non ha finito di pagare i debiti col fisco, Padoan a caccia di flessibilità. Ecco, è stato approvato anche questa norma dal Consiglio dei Ministri. E poi Tsipras, primo ministro di nuovo della Grecia, che battezza il nuovo governo e vola subito a Bruxelles. E per quanto riguarda la scuola, arrivano i 500 euro ai professori per la formazione. Il sottosegretario Faraone sarà qui tra poco a Effetto Notte. VW anbelangt, so geht es angesichts der schwierigen Lage jetzt darum, volle Transparenz zu zeigen, den gesamten Trasparenz, avete sentito, piuttosto chiaro questo termine usato dalla cancelliera Merkel, trasparenza, a proposito dello scandalo del Dieselgate, quello che insomma ha colpito il gruppo Volkswagen. E Merkel auspica un rapido chiarimento dei fatti in questa situazione difficile, ha detto la cancelliera, a Berlino serve piena trasparenza e ha annunciato che è stata avviata una commissione d'inchiesta, anche se poi è arrivata la notizia in serata che il giornale tedesco Die Welt dice che in realtà il governo sapeva di questi trucchi, insomma, per far risultare che i gas di scarico fossero meno e meno inquinanti di quelli che sono in realtà. Anche la Francia ha aperto un'inchiesta e tra l'altro sapete la vicenda, no? Che riguarda Volkswagen, che è sul banco degli imputati in questi giorni per aver barato nei test americani sulle rilevazioni delle emissioni delle auto in commercio. Le auto, diciamo così, truccate sarebbero almeno 11 milioni in tutto il mondo. L'EPA, cioè l'Agenzia Americana per l'Ambiente, accusa la casa tedesca di aver infranto la legge installando delle centraline dei motori diesel su alcuni modelli. Un software ha installato questo software per imbrogliare durante i test ufficiali di controllo dei gas di scarico. È uno scandalo che è iniziato dagli Stati Uniti ma che adesso sta dilagando in tutta Europa e rischia di far saltare l'amministratore delegato Martin Winterkorn, che è intervenuto oggi, ha chiesto scusa. Pensate che persino l'ONU definisce lo scandalo estremamente preoccupante. Ne parliamo con Gianluca Pellegrini, direttore della rivista Quattro Ruote. Direttore, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto, Pellegrini, cosa ne pensa di tutta questa faccenda? Penso che fra tutti quelli da cui ci si poteva aspettare una cosa del genere, probabilmente la Volkswagen ha l'ultima casa, onestamente, anche perché ha sempre basato la propria comunicazione, la propria immagine su una sensazione di qualità, e obiettivamente al di là di una sensazione, ma era effettivamente una cosa reale, una casa che ha sempre investito tantissimo in ricerca e sviluppo, e quindi suona abbastanza sorprendente che abbiano adottato, diciamo così, questo trucchetto per aggirare le norme americane, che devo dire sono particolarmente severe, soprattutto per quanto riguarda la riduzione degli ossidi d'azoto, però insomma effettivamente è sorprendente che la Volkswagen abbia agito in questo modo, soprattutto in un mercato su cui loro puntavano moltissimo, proprio sull'apporto dei motori diesel per conquistare quote di mercato. Poi si pensa, sono tedeschi, l'immagine solo della Germania, dei tedeschi, di autorevolezza, di rigore, e però. Ma spostandoci un po', diciamo, sull'aspetto interno, politico, non so come definirlo, pensi, Pellegrini, che effettivamente il governo, adesso questa è un'indiscrezione dei Die Welt, sarebbe un ulteriore scandalo nello scandalo se effettivamente il governo tedesco fosse stato al corrente di queste manomissioni, diciamo? Ma io ho letto l'articolo che è uscito su Die Welt, sul sito internet, un paio d'ore fa, nel tardo pomeriggio. In realtà si parla di un'interrogazione parlamentare avanzata dai Verdi, sì, nei confronti del ministro dei trasporti. Ecco, da questo dedurre che il governo fosse a conoscenza di trucchetti, onestamente mi sembra un po' tirata per i capelli. Certo è che rimane un problema aperto da tantissimo tempo, un problema annoso su cui peraltro Quattro Ruote ha insistito, ha fatto inchieste in passato, neanche tanto lontano, sul metodo di omologazione delle macchine. Sono dei processi assolutamente anacronistici, che non trovano riscontro poi nella vita reale, ed è il motivo per cui poi tantissima gente si lamenta che la loro macchina consuma di più di quello che viene dichiarato, tant'è vero che noi nella nostra prova su strada chiariamo molto in modo molto netto qual è il consumo dichiarato dalla casa e qual è il consumo effettivo. Quindi non si tratta soltanto, diciamo, di trucchetti sui gas di scarico, sulla quantità e la tossicità di questi gas di scarico, ma anche sui consumi. Quindi le due cose sono correlate. Le due cose sono correlate, tant'è vero che il processo di omologazione parte dalle emissioni inquinanti e da queste poi si deriva il consumo della macchina. Quindi le due cose in realtà vanno di pari passo. In questo caso il problema nato in America è nato perché il... È successo qualcosa lì vicino, Pellegrini. Speriamo bene. È nato perché in California appunto le norme sugli inquinanti sono particolarmente più stringenti rispetto agli altri stati americani, e quindi hanno ritenuto di fare questa prova supplementare da cui è venuto fuori questo trucco, questo escamotage, come vogliamo chiamarlo. Ma è vero, Gianluca Pellegrini, che in realtà ci sono vari produttori di auto che usano dei trucchi per ottenere durante i test ufficiali certi risultati e poi immediatamente dopo, quando finisce il test, si ritorna alle prestazioni reali? Allora, chiamiamolo trucchetto. Allora, questo trucchetto del software che cambia la mappatura della centralina in funzione di quello che sta facendo la macchina, onestamente questa è la prima volta che si sente. È vero comunque, come dicevo prima, che i processi di omologazione della macchina, sia per quanto riguarda le emissioni inquinanti, sia per quanto riguarda i consumi, ubbidiscono a dei comportamenti totalmente slegati dalla guida che noi abbiamo tutti i giorni. Tant'è vero che vengono utilizzate delle macchine che di fatto non vengono neanche vendute, con delle gomme molto strette, senza l'aria condizionata accesa, con i finestrini tirati su, senza gli specchietti retrovisori, appunto per avere il migliore risultato sui rulli, le macchine quando vengono omologate non vengono omologate provandole su strada, vengono omologate sui rulli, il che di per sé sta a indicare che non è particolarmente indicativo. Però, voglio dire, le norme sono queste sono norme europee e sono anche le norme americane, quindi non si può fare una colpa alle case automobilistiche di essere fedeli a queste norme. Diciamo appunto, le inchieste, dicevo prima, si stanno allargando a macchia d'olio. Sentiamo cosa ha detto per quanto riguarda l'Italia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio De Vincenti. Quello che dobbiamo fare e che faremo già nei prossimi giorni è avviare le verifiche che consentano di stabilire se c'è stato un fenomeno di questo genere anche da noi. Vogliamo la massima tutela dei consumatori italiani e la massima tutela delle norme ambientali. Quindi saremo, come necessario, severi. Naturalmente, prima di tutto bisogna fare le verifiche prima di trarre conclusioni affrettate, ma saranno fatte in tempi rapidi e le conclusioni saranno importanti per decidere poi come muoversi. Ci affidiamo dunque a queste parole. Tra l'altro Fiat Chrysler ci ha tenuto a puntualizzare, cioè non usiamo dispositivi difettosi, lavoriamo da vicino con l'EPA, che è l'Agenzia per l'Ambiente americana, sul rispetto delle norme. Sì, effettivamente. Allora, una piccola notazione. Sì. Io ho iniziato a ricevere nel pomeriggio delle email preoccupate da parte dei clienti Volkswagen in Italia, in cui mi dicevano: ma adesso che cosa mi succede? Se mi ferma la polizia e mi controlla i gas di scarico, mi daranno una multa. Non c'è nulla di tutto questo, nel senso, qui stiamo parlando di un problema che è venuto fuori in sede d'omologazione. Cioè, l'omologazione è quando la macchina riceve, diciamo così, chiamiamolo il benestare da parte del Ministero dei Trasporti o comunque di uno Stato per essere venduta. Quindi l'automobilista non c'entra. Ecco. L'automobilista non c'entra assolutamente niente, l'automobilista è il cliente finale, il consumatore finale di questa automobile. Quello che fa la casa prima, ovviamente il consumatore non può saperlo, ma non deve neanche saperlo. Non è che si può preoccupare di sapere se la sua macchina rispetta tutte le norme, se la macchina è in vendita chiaramente rispetta le norme. Se poi questi norme sono stati aggirati in qualche modo, ecco, c'è la responsabilità della casa. Poi adesso quello che sta succedendo anche nella Volkswagen, non vorrei essere protagonista, non vorrei essere nei panni dei top manager Volkswagen, perché chiaramente qualche responsabilità ci deve, anzi, responsabilità ad altissimo livello ci deve essere. E qualche testa salterà, adesso staremo a vedere. Intanto hai fatto bene a rassicurare gli automobilisti italiani. Grazie Gianluca Pellegrini, direttore della rivista Quattro Ruote. Grazie a voi, buonasera. Ciao, buona serata. Prendiamoci adesso questa pausa di ricreazione. Intanto arrivano i vostri messaggi, continuano. Franco che dice: la verità è che l'Europa, a proposito di immigrazione, si è mossa solo quando l'ha voluto Merkel. Come sempre l'Italia non conta niente, dice. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, con me i vostri messaggi. Andrea che scrive al 349-238-6666. Rammento che Marchion accusò la Volkswagen, insomma la tedesca, di pratiche commerciali spregiudicate, dice. E poi qualcuno dice, inneggia la Toyota, Volkswagen continua a fare stufe con le ruote, 2/3 dell'energia va in calore, insomma. Poi scrive un altro ascoltatore, questi sono molti sull'immigrazione, poi ce ne occuperemo tra pochissimo, dice: scandalo Volkswagen, no, questo ancora sui trapani cinesi, ecco, non ritrovo il messaggio, insomma, di prima, eccolo qua: se i politici non fossero mossi dalle varie lobby del mondo, oggi potremmo sancire la fine del motore a scoppio, una tecnologia vecchia di 100 anni, si parla da tanto tempo dei motori ecologici, sostenibili, eccetera, per il momento siamo messi così. Tra pochissimo parliamo dell'emergenza immigrazione, del vertice che c'è stato oggi, del vertice che ci sarà domani, però intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Lo scandalo Volkswagen, appunto, di cui abbiamo appena parlato, sono 11 milioni le auto truccate, l'Unione Europea avverte, andremo fino in fondo, e mentre la cancelliera Merkel chiede chiarezza, il giornale Die Welt accusa: il governo sapeva di truffe sulle emissioni. Il titolo: Volkswagen chiude con meno 35% in 2 giorni. Migranti, approvata a maggioranza a Bruxelles, redistribuzione di 120.000 rifugiati, e l'Ocse parla di esodo senza precedenti. La riforma del Senato, accordo in dirittura d'arrivo, la minoranza PD fa sapere che gli emendamenti per ora restano, ma l'intesa paese vicina. Scuola, arrivano i 500 euro ai professori per la formazione, parte la terza tranche di assunzioni. Ruby bis, forse nella notte la sentenza della Cassazione per Minetti e per Fede, per il quale il PG chiede un aumento della condanna. E Boss intanto è stato condannato a 18 mesi per vilipendio a Napolitano. Per il calcio, Serie A in campo per la quinta giornata con la partita Udinese-Milan. Europa 24 notte. Oggi si è tenuto a Bruxelles, come vi dicevo, il vertice europeo dei ministri dell'interno sull'emergenza immigrazione. L'Unione Europea ha votato sì a maggioranza, quindi non all'unanimità, per il piano dei ricollocamenti dei 120.000 rifugiati arrivati in Europa negli ultimi mesi. I paesi di primo arrivo dei migranti, cioè lo sappiamo bene l'Italia, poi anche la Grecia e l'Ungheria, devono però in cambio di questo ricollocamento impegnarsi a rafforzare le strutture di identificazione e registrazione dei migranti in collaborazione con le varie agenzie europee. Non c'è stata però, vi dicevo, l'unanimità, perché Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Ungheria, quindi l'Est Europa che continua a essere recalcitrante in questo senso, hanno votato contro, mentre la Finlandia si è astenuta. Il via libera a questo programma delle redistribuzioni in ogni caso è arrivato dopo che il Presidente della Commissione Europea, Juncker, a un certo punto molto irritato ha detto 120.000 rifugiati, questa è la cifra del ricollocamenti, cioè siamo ridicoli data la grandezza del problema. Mi chiedo se i libanesi o i giordani, che ne accolgono alcuni milioni, capiscono di quello di cui stiamo parlando noi qui in Europa. E in effetti, secondo l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo in Europa, l'Europa raggiungerà nel 2015, quindi nel corso dell'anno, un livello senza precedenti di richiedenti asilo e rifugiati, salendo fino a 1 milione di procedure d'asilo. E l'OCSE denuncia i costi umani spaventosi e inaccettabili, così li ha definiti, della crisi, sottolineando che Italia, Grecia e Ungheria sono in prima linea. E c'è anche l'Agenzia per i Rifugiati dell'ONU che ammonisce, dicendo che i ricollocamenti da soli non bastano. Intanto l'ondata di arrivi non si ferma. Parliamo di tutto questo con Stefano Torelli, ricercatore dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera Torelli. Buonasera a voi. Quindi da una parte l'Europa che cerca stentatamente di arrivare a un accordo condiviso con sempre questo blocco dei paesi dell'est che non ne vogliono sapere, intanto OCSE e l'agenzia dell'ONU per i rifugiati che dicono guardate che qui c'è una massa, un esodo epocale come non è mai stato. Però continuano, cosa sono, egoismi nazionali questi o ancora non si è fatta, ci si è fatta l'idea effettiva, complessiva del problema? Beh, io direi che sì, vi è una doppia considerazione da fare, insomma una duplice considerazione. Da un lato sicuramente, come giustamente sottolineava anche lei, ancora siamo, nonostante stiamo parlando ormai da mesi, questa emergenza, che non è neanche più un'emergenza, mi permetto di dire, perché appunto ormai è un dato di fatto il fatto che vi è questo flusso senza precedenti nell'Europa. E da un lato di fronte a questa emergenza, che ripeto non è neanche più un'emergenza, vi sono ancora degli interessi personalistici dei singoli stati che quindi prevalgono, diciamo, su una visione comunitaria di quella che insomma invece dovrebbe essere una risposta comune dell'Unione Europea. Dall'altro appunto non ci si rende conto forse del flusso, come dice lei, che sta avvenendo, ma diciamo provocatoriamente io direi anche che non ci si rende conto in maniera non tanto negativa ma positiva del flusso, nel senso che è vero che si sta parlando di numeri molto grandi, è vero che giustamente anche oggi l'OCSE ha rilasciato questo nuovo rapporto in cui si parla di una previsione di più di 1 milione di rifugiati o richiedenti asilo potenzialmente in Europa, ma d'altro canto è vero anche, e molti lo stanno sottolineando in questi giorni, che insomma la popolazione, diciamo, dell'Unione Europea supera addirittura i 500 milioni di persone, quindi se noi andiamo a pensare in termini semplicemente di proporzioni, di proporzioni non è o non sarebbe un evento così diciamo così catastrofico, così difficile da affrontare, soprattutto se questa è l'altra parte chiaramente anche del rapporto Ortox di oggi e insomma di molti altri rapporti che fanno notare quante disparità vi siano tra quello che accade in Europa e in altre aree, soprattutto se appunto lo confrontiamo con quanto accade in altre realtà, in altri paesi come appunto Turchia, il Libano, la Giordania, paesi che confinano con la Siria, che sta vivendo questa crisi ormai da più di quattro anni. E loro Torelli come fanno quindi? Come fanno? Beh, diciamo qui vi è da fare una considerazione, una da un punto di vista quantitativo, diciamo, e una forse più qualitativo, nel senso come fanno. Pensiamo a un paese come il Libano, per esempio, un paese che ha 4 milioni di abitanti più o meno e che sta accogliendo più di 1 milione di rifugiati dalla Siria, quindi dove sostanzialmente le proporzioni non sono neanche paragonabili a quanto sta accadendo in Europa, cioè parliamo del 25% della popolazione che è una popolazione rifugiata, cioè un abitante su 4 di fatto è rifugiato in Libano. Come fanno? Chiaramente vi sono hanno allestito dei campi profughi, hanno allestito dei campi rifugiati, vi è un sostegno chiaramente molto, insomma, in prima persona molto attivo dell'UNHCR, che è l'agenzia dell'ONU preposta alla questione dell'immigrazione e dei rifugiati, e riescono in qualche modo a far fronte a questa emergenza. Questo però è da un punto di vista, quello che ho detto prima, quantitativo. Con i numeri più o meno vanno, diciamo così. Dal punto di vista quantitativo, chiaramente noi potremmo, insomma, se le condizioni in cui questi rifugiati sono in Libano o in Giordania o in molte parti della Turchia si presentassero anche in Europa, io sono sicuro, e sarebbe anche giusto, per carità, che la Corte dei diritti umani si farebbe sentire. Ci sarebbero delle levate di scudi, perché insomma è chiaro che non sono a livello qualitativo delle condizioni accettabili in molti casi, ed è anche questo il motivo per cui in questi ultimi mesi stiamo assistendo a questo esodo, diciamo, che è diventato molto numericamente molto più ampio rispetto ai mesi precedenti, proprio perché un nuovo fenomeno cui stiamo assistendo è proprio che adesso i rifugiati siriani, i profughi che vengono dalla Siria, non scappano più soltanto dalla Siria, ma anche cominciano a scappare proprio e a fuggire dai campi profughi di Giordania, esatto, dei paesi confinanti, perché evidentemente non vi sono più delle condizioni accettabili. Quegli stessi paesi diciamo denunciano il fatto che insomma non possono continuare a sostenere un peso così grande. Quindi insomma vi è questa doppia considerazione da fare, cioè è vero che chiaramente siamo di fronte ad un'ondata senza precedenti d'Europa, è altrettanto disarmante che l'Europa non riesca a trovare una soluzione condivisa a questo problema e che insomma ancora oggi i 28 paesi membri dell'Unione Europea siano qui a discutere di 100-120 mila rifugiati da ripartirsi in quote, quando i numeri assoluti anche in altri contesti insomma sono ben più alti. Sentiamo tra l'altro il ministro dell'Interno Alfano, che cosa ha detto oggi. Si è detto soddisfatto, ha detto che l'Europa ci deve ringraziare l'Italia, immagino, non ho sentito poi il resto, immagino che dica perché abbiamo in parte, ci siamo fatti carico del problema e perché anche abbiamo sollecitato le istituzioni europee a occuparsi di questo fenomeno. Sentiamo oggi dopo il vertice che cosa ha detto. Io credo che oggi abbiamo avuto ragione su tutta la linea, c'è una piccola nota amara, che qui hanno impiegato 2 anni per capire quello che era sotto gli occhi di tutti. Da 2 anni noi dicevamo che era impossibile che tutti i profughi attraversassero il Mediterraneo centrale per arrivare in Europa, era inevitabile che seguissero anche altre rotte, così è successo, dovevamo lavorare come Europa nella prevenzione di ciò che sarebbe accaduto e invece siamo intervenuti con ritardo. Abbiamo avuto ragione e io credo che questo sia un risultato talmente importante che dovremo sempre farlo pesare ai tavoli europei. Sul ritardo generale non ci sono dubbi, però vediamo che cosa emergerà dal vertice di domani. Grazie Stefano Torelli dell'ISP intanto. Grazie a voi. Grazie, di abilità. Europa 24 notte. collaborazione con Euronet Plus. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccole in pochi secondi con lo scandalo che affossa Volkswagen. Il titolo ha perso meno 35% in due giorni. La cancelliera Merkel chiede trasparenza, ma il giornale Die Welt dice che il governo sapeva. E poi del problema migranti ne abbiamo parlato poco fa. L'Europa è divisa anche se approva il piano di ricollocamento. E poi il ricollocamento di 120.000 profughi è stato via libera dalla maggioranza, non all'unanimità. Francesco, Papa Francesco negli Stati Uniti, l'abbraccio con Obama, ha salutato Cuba e l'ha salutata insomma con tenerezza. E poi rate bis per chi non ha finito di pagare i debiti, col fisco Padoan a caccia di flessibilità anche per la questione pensioni, ne abbiamo parlato ieri. Poi Tsipras, primo ministro greco, che battezza il nuovo governo e vola subito a Bruxelles. Vi do anche l'aggiornamento: Udinese Milan 0-3 per il Milan. Non so se sarà contento l'onorevole Davide Faraone, sottosegretario all'istruzione. Non so se lei calciofilo. Calciofilo, ma assolutamente indifferente al risultato di Udinese Milan. Ecco, allora non ci pronunciamo, non ci esponiamo oltre. Invece, col sottosegretario Faraone voglio parlare di questa ulteriore novità che era sempre contenuta nella buona scuola. Renzi ha firmato il decreto che vara i 500 euro per la formazione dei docenti. Quindi si troveranno in busta paga, la ministra Giannini aveva detto a ottobre qualche giorno fa, quindi a ottobre i docenti si ritroveranno 500 euro per l'autoformazione in busta paga, sottosegretario Faraone? Assolutamente sì, era una misura prevista dalla legge 107 sulla buona scuola ed è una misura che abbiamo, così come tutte le altre, messo in campo per rispettare ciò che la legge prevede con lo stanziamento economico, quindi gli insegnanti avranno queste risorse in busta paga per la formazione che potrà essere praticata o con diciamo utilizzandola per acquistare il biglietto al teatro, un abbonamento o acquistare dei libri. O comunque tutto ciò che compete poi la formazione degli insegnanti in servizio. Più o meno quante, che numeri sono? Quante buste paga, quanti docenti arriveranno questi 500 euro? Che numeri? Ma tutti i docenti, sia quelli che sono in servizio più quelli che entreranno in servizio anche a novembre, per cui non ci sarà una differenziazione tra gli insegnanti anziani e i neoassunti che saranno in questo diciamo in questo giro tra le varie fasi circa 80.000 insegnanti, per cui nessuna differenziazione per tutti questa card. Ha parlato di 180.000 insegnanti perché la sento un po' come in un tubo di quello dei bambini che ci sono nei parchi giochi, come mai? Cosa che te lo fanno? Io ho parlato di 80.000, rispetto a 80.000 quelli che i nuovi assunti, quindi nessuna differenza tra i vecchi e i nuovi assunti per tutti la card della formazione. Sottosegretario Faraone, poi lei ha annunciato oggi su Facebook che parte la fase 3 o fase C delle assunzioni, no? Quindi dovrebbero esserci altre 55.000 nuovi docenti che arrivano nelle scuole italiane, dice, per potenziare la scuola. Però ho visto subito una replica dell'ANIEF, del sindacato professionale di insegnanti, che dice: in questo modo il MIUR, il ministero, tradisce la riforma e qualsiasi tentativo di introdurre la buona scuola, perché dice l'amministrazione infatti per gli istituti superiori limita il campo di scelta a 7 ambiti disciplinari definiti campi di potenziamento dell'offerta formativa per le scuole del secondo ciclo, impone in questo modo alle scuole dei generici insegnamenti da integrare agli attuali organici, non quelli che effettivamente servono alle scuole. Dice: in questo modo più che trarre beneficio si crea ulteriore caos. Cosa risponde? È un'affermazione come al solito ideologica contro la riforma, che non entra nel merito delle questioni, ma che è un no costante a qualunque cosa viene fuori. Noi quello che proponiamo con questi 55.000 nuovi insegnanti è il potenziamento degli insegnanti in servizio. Se questi 55.000 più parte dei quasi 40.000 che abbiamo assunto nelle prime fasi sono tutti insegnanti in più per le scuole, quindi la media sarà circa 6-7 insegnanti in più per scuola per svolgere attività che vengono richieste dalle scuole, per svolgere attività che è legata a quello che le scuole vogliono mettere in campo, sia come potenziamento di materie esistenti, sia come rafforzamento di attività parallele. In più si completerà il percorso con le altre quasi 90.000 assunzioni che faremo col concorso che entro dicembre verrà indetto. A completamento di tutto il percorso di assunzioni ci saranno insegnanti per materie e per classi concorso richieste dalle scuole, più insegnanti che serviranno per mettere in campo le attività che non sono quelle delle materie tradizionali, ma che sono quelle che normalmente svolgono comunque le scuole. Per cui siamo tranquillissimi del fatto che a conclusione del percorso le scuole avranno più insegnanti degli anni passati e forniranno una didattica più continua, perché non ci saranno più le supplenze e più efficace. Questa fase C o fase 3, quindi l'altro di 90.000 ulteriori a dicembre, questa fase 3 quando parte di 55.000 nuovi? La fase 3 si chiude entro novembre di quest'anno, quindi parte immediatamente e riguarda 55.000 persone. Poi il concorso, che riguarda quasi 90.000 persone, si indirà entro dicembre e gli insegnanti ulteriori 90.000 saranno in servizio per il prossimo anno scolastico. Grazie sottosegretario Faraone. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, buona serata. Speriamo che si senta meglio e più chiaro Dario Ricci, che ci deve dire che qui ci sono degli aggiornamenti su Udinese Milan. Certo, Dario? Certo, mi sentite? Molto chiaro e forte, forte e chiaro. Sì, la linea da Udine è un po' disturbata. Siamo sul 3-1, sul 3-1, cara Roberta, al settimo del secondo tempo. Milan che l'avevamo lasciato sul 2-0 dopo appena 10 minuti con i gol di Balotelli e Bonaventura, alla fine del primo tempo è arrivato il 3-0 con un colpo di testa di Zapata, ma proprio pochi istanti fa l'Udinese ha accorciato le distanze con un bel destro dal limite di Badu, che ha battuto Diego Lopez. Quindi friulani che tentano la rimonta anche per salvare la panchina di Colantuono, che a questo punto traballa anziché no. Ma ottavo di gioco nella ripresa, Udinese 1 Milan 3 allo stadio Friuli. Balotelli com'è andato per ora? Direi bene, soprattutto perché ha avuto il grande merito di sbloccare la partita dopo 5 minuti con una splendida punizione, anche se sorriso dopo il gol fatto eccezionale. Inedito, eccezionale, forse è la notizia della serata, ecco, più che il gol è il suo sorriso successivo alla rete. Grazie Dario Ricci, grazie. Questi sono gli aggiornamenti per quanto riguarda la partita che naturalmente prosegue di Serie A tra Udinese e Milan. Io intanto per il momento vi lascio, sapete che ci riaggiorniamo alle 22.